Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di futuro, soprattutto di un futuro a colori. Questo è il libro di Irene Tinagli. Buonasera Irene Tinagli. Buonasera. Il futuro a colori, scoprire nuove opportunità di lavoro e vivere felici. Irene Tinagli, laureata alla Bocconi di Milano, ha insegnato all'Università Carlo III di Madrid e dall'anno scorso è stata eletta alla Camera dei Deputati, deputato di Scelta Civica, una lunga esperienza di economista, di ricercatrice, e questo libro è dedicato soprattutto ai giovani, nuove opportunità di lavoro e vivere felici. Dedicato ai giovani, in questo libro è una rassegna di, diciamo, di casi personali, di casi un po' non scontati, di casi in cui la ricerca, l'innovazione e la passione hanno portato anche a delle realtà di successo. Come è nata l'idea di questo libro, Irene Tinagli? Per dare una risposta anche ai tantissimi ragazzi, a partire proprio dai miei studenti che venivano a chiedermi consiglio, ascoltare le loro paure, i loro timori, e poi al tempo stesso io girando molto, viaggiando in molti paesi anche per conferenze, facendo anche delle analisi, anche statistiche, conoscendo persone eccetera eccetera, mi rendevo conto che nel mondo ci sono davvero una quantità di opportunità per questi giovani di cui non sono neanche consapevoli. Quindi mi sono accorta di una sorta di paradosso, di situazione paradossale, per cui da un lato abbiamo milioni di giovani che si impegnano, che cercano delle opportunità e pensano di non averle, mentre dall'altro ci sono degli spazi che non aspettano altro che delle persone, delle competenze per essere colte, sfruttate e valorizzate. Quindi ho voluto mettere insieme queste due realtà, provare a squarciare un velo sopra le opportunità che esistono, ad aprire delle finestre e a dare un po' di speranza e di ottimismo, perché questi giovani hanno bisogno, secondo me, anche, ma non solo i giovani, un po' tutte le età, certo, di essere stimolati e rassicurati sull'esistenza di molte opportunità. Ecco, il libro si conclude, andiamo subito alla conclusione: non resta che buttarsi, studiare, viaggiare, provare, sbagliare, conoscere noi stessi e gli altri, guardare in faccia quella tela bianca che è il nostro futuro, tirare fuori la tavolozza dei colori e sporcarsi le mani. Però ecco, c'è in fondo un limite, se mi posso permettere una piccola critica. Sembrano un po' casi limite queste qui dei giovani, giovani che hanno avuto successo perché sono diventati direttori di imprese magari in California, perché hanno creato delle nuove aziende, casi molto particolari. Ma possiamo estendere questi casi e dire che ci sono grandi opportunità, se non per tutti, almeno per una gran parte di giovani, per quelli che vogliono impegnarsi? Ma guardi, gli esempi che ho portato, alcuni sono chiaramente esempi molto, voglio dire, anche roboanti possono apparire, ma in realtà ci sono tantissime storie ed esempi di ragazzi giovani che sono cresciuti in zone umilissime dell'India, della Cina, del Brasile, dell'Italia stessa, paesini sperduti in cui ragazzi che provengono da famiglie normalissime sono riusciti comunque a costruirsi un percorso gratificante. Dobbiamo anche ritrovare una dimensione più soggettiva di cosa significa fare carriera. Molti dei modelli vecchi sono caduti, si sono frammentati, non ci sono più le carriere standardizzate di un tempo. Bisogna anche saper reinterpretare la nozione di successo sulla base delle nostre esigenze, della nostra vocazione. Quindi, anzi, io lancio proprio un appello nel ridefinire dei modelli di successo che siano più vicini alle vocazioni e ai bisogni dei giovani. Ecco, in fondo l'epilogo del libro, l'ultimo capitolo, parla di Federico, un ragazzino come tanti altri, cresciuto in un piccolo paesino del Friuli Venezia Giulia, che ogni mattina si caricava lo zainetto sulle spalle, faceva una passeggiata fino alla fermata dell'autobus e lì prendeva il pulmino per andare a scuola. Un giorno gli viene comunicato che una sentenza della Corte di Cassazione dice che non può farlo. Ecco, questa è forse emblematica anche di una certa realtà italiana in cui la complessità delle procedure, la burocrazia, molti vincoli li rendono forse più difficile anche ai giovani creare delle nuove realtà, delle nuove imprese, cercare di farsi spazio all'interno della società e soprattutto dell'economia. Sì, l'esempio di Federico l'ho voluto raccontare proprio perché, oltre ad essere una storia molto carina, ma l'ho trovato proprio emblematico, come giustamente dice lei, di una realtà anche difficile in cui le persone vengono bloccate da una burocrazia, da delle procedure, però possono anche farsi sentire, come è stato il caso di Federico. Non è detto che si possa o si debba sempre subire questa situazione, si può reagire. Oggi c'è lo spazio per farlo. Il piccolo Federico ha iniziato mandando email, dandosi da fare, lavorare, contattando altre persone, facendo rete, facendo network, ed è riuscito a cambiare le sorti non solo di se stesso ma di un'intera comunità. Quindi a me è sembrato un bel esempio per far vedere che anche nelle realtà più remote, anche un ragazzino di 14 anni oggi può avere gli strumenti e la possibilità per cambiare qualcosa nella sua vita e delle persone che lo circondano. Ecco, c'è un altro aspetto, un altro particolare del libro, che è quello dedicato alla capacità di riprendersi e anche alla possibilità di sbagliare. Sbagliare fa parte in fondo dell'esperienza umana, però sbagliare può diventare una cosa positiva se uno si sa riprendere, sa fare tesoro anche dei propri sbagli, può diventare una cosa negativa se invece scoraggia, se diventa un affievolimento della speranza. Ecco, l'esperienza forse di altri paesi, degli Stati Uniti, sono paesi in cui sbagliare è considerato una cosa del tutto normale, in Italia invece è qualcosa un po' meno normale, è vero? Sì, qua chiaramente ho fatto un excursus anche nella nostra cultura, come dice lei, in altri paesi è più accettato l'idea che si possa sbagliare e ricominciare, anzi a volte è quasi una medaglia da appendersi al petto, aver provato, essersi messi alla prova, invece da noi c'è molta paura e questo è un problema che voglio dire, ci tiriamo dietro da quando siamo bambini, una competizione molto forte, la paura, il bisogno di essere i primi della classe, quindi la paura di sbagliare, e quindi lì racconto anche di come si può rompere questo meccanismo e questa cultura fin dall'educazione dei bambini. Molto spesso non ci accorgiamo che i nostri percorsi, la nostra capacità di reazione dipende da cose che avvengono anche nella nostra infanzia, nella nostra educazione. Quindi questo è un capitolo, diciamo, più dedicato ai genitori forse che non ai ragazzini. Ecco, c'è un altro elemento che lei mette molto bene in rilievo in un capitolo che si intitola "Conta di più cosa si conosce o chi si conosce". Ecco, in Italia molto spesso si parla di capitalismo relazionale, come se la raccomandazione, l'appoggio, il consiglio di chi si conosce appunto diventa fondamentale. Ecco, possiamo dire che forse in questa società diversa in cui le tecnologie della comunicazione hanno cambiato anche il tipo di rapporti, può diventare anche meno importante chi si conosce, più importante che cosa e come si conosce? Ma guardi, in realtà io ecco, in questa parte del libro ho affrontato il tema per scardinare alcuni luoghi comuni. In realtà io penso che sia sempre importante anche chi si conosce, cioè il contesto sociale, le relazioni sono sempre importanti. Quello che cambia è la struttura di queste relazioni. Tradizionalmente in Italia, come ha detto lei, si pensa sempre alla raccomandazione fatta per fare un favore. Invece nella società di oggi, con i mezzi di informazione, con le reti, quello che conta è coltivare una rete di relazioni sociali più variegata, più aperta, più orizzontale, quindi confrontarsi con persone, anche per i giovani a volte può essere più utile individuare dei bravi coetanei che hanno grande energia, grandi competenze da trasferire, che possono mettersi in gioco per costruire progetti, aziende, nuove iniziative, che non correre dietro a portare la borsa ad un potente baronetto, no? Così. Quindi è proprio scardinare una vecchia logica, un vecchio modo di vedere le relazioni, il capitale relazionale. Non vuol dire che non sia importante, è ancora importante, ma in una chiave un po' diversa. Ecco, un capitale relazionale che può essere costruito anche con i social network, che può essere costruito su basi anche diverse, si possono avere relazioni con città anche lontane, con paesi anche lontani, quindi con opportunità anche lontane, quindi un invito un po' a uscire dal proprio guscio grazie proprio alle opportunità offerte da una tecnologia che deve essere considerata comunque uno strumento che si aggiunge, ma in cui fondamentale resta anche la volontà delle persone, la capacità delle persone appunto di rompere i vecchi schemi, di cercare appunto delle nuove possibilità che ci sono. Assolutamente, io infatti quando parlo di opportunità è proprio a questo che mi riferisco. I nostri genitori non avevano accesso alle opportunità di social network, di tecnologie informatiche, ma anche di saperi, di competenze, di opportunità educative. Oggi queste opportunità ci sono e quindi è importante conoscerle, è importante saperle utilizzare, mettere in relazione a quelle che sono le nostre vocazioni. Poi chiaramente le opportunità vanno sapute sfruttare al meglio, meglio e mettersi in gioco con delle competenze vere, perché voglio dire, questi sono strumenti, come ha detto lei, fanno da cassa di risonanza. Se una persona non ha niente di valore da portare, quello che si diffonderà è una cattiva reputazione più che una buona reputazione, quindi le opportunità più che crearsi potrebbero anche distruggersi. Paradossalmente, ecco, possiamo concludere citando un piccolo capitolo che secondo me però è molto importante, che è il vantaggio competitivo della felicità. Essere felici, cercare la felicità, cercare appunto qualcosa che non è solo il successo o la ricchezza, può dare appunto quella forza in più per superare anche le difficoltà che ovviamente ci sono e che nessuno si dà sconto della società attuale. Sì, questa, io ho visto troppi ragazzi, troppe persone a volte condizionati dai modelli di successo che gli venivano trasmessi magari dall'esterno, ma che li rendevano infelici e non riuscivano a realizzarsi. E troppo spesso noi crediamo che per essere felici dobbiamo prima avere il successo, poi non ci riusciamo e diventiamo ancora più incavolati e arrabbiati. Invece è l'opposto, come dimostrano anche degli studi, qua racconto anche di esperimenti fatti ad Harvard. È la felicità che aiuta a trovare il successo, non viceversa. Non viceversa. Una persona che è contenta, che è felice, che si sa realizzare nelle cose che fa, ha più probabilità di riuscire che viceversa. Ecco, con questo messaggio io ringrazio Irene Tinagli di essere stata con noi questa sera. Ricordiamo, l'autrice del libro Il futuro a colori, scoprire nuove opportunità di lavoro e vivere felici, edito da Rizzoli, sono 230 pagine per 18 euro. Grazie a quanti ci hanno ascoltato e buona domenica a tutti.